Letture di Radio 24. Se il numero di migranti arrivati nel nostro paese ha subito un'impennata negli ultimi mesi, forse lo si deve anche alle ONG internazionali che si occupano dei salvataggi in mare. Secondo il procuratore capo di Catania, Carmelo Zucchero, nei primi mesi del 2017 la percentuale di salvataggi effettuata dalle ONG è salita ad almeno il 50% e sono in corso verifiche su possibili complicità tra chi fa partire i migranti e chi li raccoglie. Che l'enorme business legato all'accoglienza possa far gola anche alle presunte associazioni umanitarie lo si era già visto in passato e i dati sulla clandestinità parlano chiaro sulla facilità con cui si può entrare nel nostro paese spacciandosi per richiedenti asilo. In un lungo articolo pubblicato mercoledì scorso sul Foglio, Alfredo Mantovano elenca alcuni luoghi comuni da sfatare sul fenomeno migratorio, come ad esempio l'idea che tutti i richiedenti asilo siano uguali. Che senso ha perdere tempo per esaminare le richieste fatte da migranti provenienti da paesi come il Marocco, dove non esistono emergenze umanitarie, si chiede Mantovano, o il fatto che i richiedenti asilo non possano lavorare? Siamo davvero certi poi che non esista la clandestinità? Si domanda Mantovano, che poi scrive. Nel 2015, a fronte di 153.842 sbarcati, le istanze di asilo sono state 83.970. Che fine hanno fatto gli altri 70.000? Si tratta a tutti gli effetti di persone senza alcun titolo di regolare soggiorno, privi perfino di quel permesso provvisorio rilasciato nell'attesa dell'esame della domanda. Sempre nel 2015, i dinieghi sono stati il 59%. Vuol dire che dei migranti entrati in Italia nel solo 2015, oltre 110.000 non avevano alcun titolo per restarvi. Nel 2016 il dato è cresciuto in proporzione e in assoluto. Le persone giunte via mare in Italia sono state 181.436, il 17,94% in più del 2015. I soggetti che nel 2016 hanno avuto un'espulsione effettiva con riaccompagnamento nel paese di origine sono 5.789, appena il 5% degli irregolari arrivati. Negli ultimi 4 anni l'estensione della clandestinità è cresciuta a un ritmo che può stimarsi in 100.000 unità all'anno. Non tutti sono rimasti in Italia, ma i maggiori controlli alle frontiere francese e austriaca predisposti negli ultimi 2 anni fanno stimare che oggi la gran parte dei migranti irregolari resti nel nostro paese. Quest'area finora è stata semplicemente ignorata, provocando un obiettivo incremento di criminalità. Perché un'espulsione sia effettiva è necessario a) identificare in modo sicuro il soggetto e la sua nazionalità, b) accordarsi con lo stato d'origine perché lo riprenda con sé, c) impedire che egli si dilegui finché sono in corso l'identificazione e la trattativa con lo Stato in questione. Dopo 5 anni di abbandono, il governo riprende a lavorare in questa direzione con l'incremento degli hotspot, dei CIE, seppure diversamente denominati, dei contatti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Il terreno da recuperare è tanto, la direzione è quella giusta. L'auspicio è che non finisca come per i voucher, ritirati in blocco per non affrontare le proteste di pochi. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dall'articolo di Alfredo Mantovano ai migranti di una volta, dal Foglio del 22 marzo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Letture di Radio 24. Dopo l'attentato di mercoledì scorso a Westminster, c'è chi, come sempre, propone un dialogo con l'Islam moderato e chi cerca di minimizzare. In un'intervista pubblicata sulla Repubblica, lo scrittore anglo-pakistano Hanif Qureshi dice che la Londra multietnica si sveglierà senza paura. «Non ho paura del terrorismo della porta accanto o del primo volto asiatico che incontrerò per strada domani mattina. Ho paura che questo attacco moltiplichi il razzismo, che l'Europa veda in ogni musulmano un terrorista. La mia preoccupazione adesso è che questi saranno tempi sempre più difficili per le minoranze etniche e religiose in Europa», continua Qureshi, forse dimenticando che nei paesi arabi le minoranze cristiane subiscono ben altro che diffidenza. Ma le sue preoccupazioni, a quanto pare, sono piuttosto diffuse nel mondo islamico. Il giorno prima dell'attentato, infatti, erano stati resi noti i risultati di un sondaggio commissionato dall'Institute for Social Policy Understanding, un'associazione non profit che si occupa di integrazione dei musulmani in America. In base a questi sondaggi, risulta che 4 cittadini statunitensi di religione islamica su 10 affermano che i loro figli sono stati discriminati a scuola, mentre il 38% degli intervistati si sente preoccupato per la sua sicurezza più di qualunque altro membro di altre religioni. Nello stesso sondaggio, il 30% degli intervistati si lamenta perché i musulmani vengono fermati per controlli molto più spesso rispetto agli ebrei. Forse non abbastanza, a quanto pare. Come scrive Giancarlo Giacalone giovedì scorso su Il Giornale, in molte parti dell'Inghilterra erano state più volte segnalate attività di soggetti radicali, ma come era già successo in Francia e in Belgio, questi segnali erano rimasti inascoltati. In aree come l'East End londinese, Birmingham, Leicester, venivano più volte segnalate attività di soggetti radicali, ma ormai il fenomeno sembra diventato parte integrante di quel contesto socio-culturale che è andato a sostituirsi a quello britannico, scrive Giacalone, che poi prosegue. Dei veri e propri ghetti, dove più che in Europa sembra di essere in qualche villaggio del Pakistan, con i negozi che in alcune zone chiudono 5 volte al giorno per permettere ai fedeli di andare a pregare, con personaggi con tuniche e barba che fanno dawa in strada e distribuiscono volantini che hanno ben poco di religioso e molto di militante. Ci sono poi le Sharia Courts, i tribunali islamici, che stanno ormai diventando un sistema giuridico parallelo a quello britannico, disponibile per tutti coloro che vogliono rivolgervisi. Ci sono i predicatori radicali come Aniem Choudhary, lasciato libero di predicare liberamente per tanto, troppo tempo, prima di essere arrestato la scorsa estate, per supporto ideologico all'ISIS. La Gran Bretagna è stata per anni patria di Omar Bakri Muhammad, Abu Hamza, Abu Qatada, sede europea dei Fratelli Musulmani. Insomma, l'estremismo islamista in Gran Bretagna è da tempo un problema e forse a Londra c'è chi si era costruito delle illusioni sul fatto che magari, lasciando autonomia e non imponendo integrazione, l'estremismo non avrebbe colpito. Ma la realtà è ben differente, come dimostrarono già a suo tempo gli attentati del 2005, un segnale evidentemente mai colto adeguatamente, come del resto in altri paesi europei, dove si è sottovalutata l'infiltrazione islamista. L'attentato di mercoledì scorso a Westminster è l'ennesimo segnale, così come i tanti like e faccine sorridenti pubblicati dagli spettatori dell'emittente televisiva del Qatar Al Jazeera, vicina alla resistenza siriana e ai Fratelli Musulmani, alla notizia dell'attacco di mercoledì. L'islamismo radicale ha da tempo dichiarato guerra a tutti coloro che vi si oppongono, e come illustra il generale Mario Mori nel suo libro Oltre il terrorismo, bisogna avere il coraggio di dire all'opinione pubblica che di guerra si tratta, perché allora diventa tutto più chiaro e comprensibile. A questo punto sarà possibile delineare una linea d'azione operativa netta e continuativa, sostenuta da scelte politiche ben precise e prive di ambiguità. Mercoledì a Westminster le cose potevano diventare ben più drammatiche. I morti purtroppo ci sono stati ed è stato sufficiente un SUV e un'arma bianca, una strategia operativa già vista più volte e in linea con le direttive di al-Baghdadi. È però lecito domandarsi come mai l'attentatore abbia deciso di colpire un hard target come Westminster, altamente sorvegliato ed estremamente difficile da penetrare, soltanto con coltello e usando un autoveicolo come ariete. Era prevedibile che non sarebbe mai andato oltre il primo cordone di sorveglianza. Dunque perché non optare per un soft target, dove avrebbe massimizzato il numero delle vittime? Vi è poi il flop investigativo, visto che, come è emerso giovedì mattina, i segnali di un imminente attacco a Westminster erano emersi sul web attraverso il forum 4chan, ma erano stati sottovalutati dall'intelligence di Londra. Nella notte di mercoledì sono scattati blitz in varie parti di Londra e Birmingham. Sono state effettuate perquisizioni e arresti, ma ancora una volta si è aspettato che l'estremismo islamista sfociasse in violenza. Non si è stati in grado di prevenire. Attendere che l'attentato vada in porto per poi agire significa perdere in partenza, ma le premesse erano da tempo evidenti. Queste le parole di Giovanni Giacalone dell'articolo «Tutti quei segnali inascoltati sulla Londra radicalizzata» dal Giornale del 23 marzo. Sul Corriere della Sera invece Pierluigi Battista scrive che ricordiamo tutti molto bene gli attentati dal forte impatto spettacolare, mentre accogliamo con un certo torpore, con una reattività rallentata e addirittura con una forma di assuefazione rassegnata, la miriade di episodi che coinvolgono attentatori isolati. Scrive poi Battista. Come se l'apparente isolamento di chi uccide e compie ripetutamente stragi in un arco temporale relativamente ristretto ci volesse convincere che non si tratta di una guerra globale scatenata contro il mondo infedele, ma la somma di singoli casi non collegati tra loro. Abbiamo faticato a riconoscere la matrice islamista della strage della discoteca di Orlando in Florida. Abbiamo cercato di ridurre il massacro in un bar di Dhaka con la morte di 11 nostri giovani connazionali a una cruente e criminale bravata di ricchi rampolli del Bangladesh. A Monaco, in un centro commerciale, nel luglio scorso, un ragazzo ha ucciso 9 persone sparando all'impazzata. Sembrava un isolato, poi si è scoperto che non lo era. A Charleroi, in Belgio, 2 poliziotte sono state sfigurate a colpi di macete da un uomo che colpiva con ferocia, gridando la sua appartenenza religiosa. Sempre nel luglio 2016, in Germania, un ragazzo proveniente dall'Afghanistan ha ferito a colpi d'ascia 5 passeggeri di un treno regionale. Anche a Reutlingen, un ragazzo siriano ha ucciso con un'accetta una donna incinta e ha ferito 2 passanti. E ad Ansbach un uomo si è fatto esplodere ferendo numerosi partecipanti a un concerto rock. Ora a Londra, colpita nel suo Parlamento, è più difficile far finta di niente e non rendersi conto che la guerra unilaterale scatenata dal fanatismo religioso non si è mai fermata. Una guerra a bassa intensità che non cessa di seminare lutti e terrore. Queste le parole di Pierluigi Battista, dal suo articolo «Con gli occhi chiusi davanti ai terroristi», pubblicato lo scorso 23 marzo sul Corriere della Sera. Per la cronaca, poche ore dopo, un altro terrorista islamico ha tentato la stessa impresa in una via centrale di Anversa, in Belgio, ma questa volta è stato fermato in tempo. Nelle stesse ore è stata diffusa l'identità dell'attentatore di Londra, Khalid Massoud, noto fin dal 1983 alle forze dell'ordine per atti di criminalità come possesso di armi, lesioni aggravate e disturbo della quiete pubblica. Mai condannato per terrorismo, ovviamente.